Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nella classifica dei musei d'arte più visitati nello scorso anno non c'è neppure un italiano tra i primi 20. Ma prima di lanciarsi nelle solite polemiche, bisognerebbe tenere conto anche di altri indicatori, scrive Guido Guerzoni sulle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore. Il Giornale dell'Arte ha appena pubblicato la classifica dei musei d'arte più visitati del mondo. Non è un caso se il clamore sollevato dal ranking delle istituzioni tricolori, che nel 2009 hanno piazzato nella top 50 gli Uffizi al 21esimo posto, il Palazzo Ducale di Venezia al 35esimo e la Galleria dell'Accademia di Firenze al 39esimo, ha destato l'interesse di primarie società di consulenza, centri di ricerca ed esperti vari avvicendatisi al capezzale dei musei italiani nel tentativo di trovare delle cure, auspicabilmente a costo zero, per sanarne gli acciacchi. In queste analisi, tuttavia, l'unico key performance indicator preso in considerazione è il numero totale di visitatori, laddove sarebbe più corretto utilizzare quello delle visite, una distinzione apprezzata purtroppo da pochi amanti delle sottigliezze. Si tratta di un indicatore fuorviante se isolato dal contesto, poiché non può essere disgiunto dalle variabili che contribuiscono a rendere attrattive e competitive le istituzioni confrontate. Innanzitutto, in classifica figurano istituzioni ad accesso gratuito, 5 delle prime 6, e altre che applicano misure tariffarie. Dal dicembre del 2001, i musei nazionali inglesi hanno abolito il biglietto di ingresso per le collezioni permanenti, registrando un comprensibile boom di accessi. Secondo l'ultimo rapporto della National Museum Director Conference, tale decisione ha fatto crescere dell'80% le visite degli under 16, dell'81,6% quelle delle minoranze etniche, del 65,5% quelle degli ultra sessantenni, con un incremento netto sulla decade 1998-2008 del 131%. È palese che se il Ministero per i Beni Culturali adottasse la stessa policy per i propri 225 istituti con ingresso a pagamento, diverse istituzioni italiane scalerebbero numerosissime posizioni, se non ci fossero alcuni problemucci. In Italia gli ingressi sono spesso contingentati, in base alle capacità di carico degli spazi espositivi e delle relative soglie di congestione, da che la maggior parte dei nostri musei è ospitata in edifici secolari, progettati per accogliere poche centinaia di religiosi, familiari o cortigiani, e non migliaia di art lovers. Tali vincoli, di norma espressi in termini di ingressi orari massimali, sono stati imposti per ragioni di sicurezza ed esigenze conservative. L'umanità alita, suda, dissemina batteri e parassiti, altera i valori termoigrometrici, eccetera. Abolendo tali limiti, la Galleria dell'Accademia Fiorentina, 2.300 metri quadri scarsi, per 1.130.136 visite nel 2009, o le omologhe veneziane, potrebbero facilmente entrare nella top 10 mondiale, trascurando i danni inflitti alle opere e il peggioramento delle condizioni di visita. Il problema è che vengono comparate istituzioni le cui dimensioni non giustificano il confronto. L'Hermitage, se percorso palmo a palmo, costringe il visitatore a una sgambata di 31 chilometri, laddove il Metropolitan vanta una superficie espositiva di 102.780 metri quadri contro i 5.400 degli Uffizi. È 20 volte più grande. Non è leale far competere una 500 con una Ferrari. Se si stimasse il rapporto tra superficie espositive e numero di visite, svariati musei italiani balzerebbero nella top 10. Né ha senso confrontare realtà con bacini di utenza locale incommensurabili. Nell'area urbana di Tokyo vivono 34,7 milioni di persone, in quella di Seoul 21. Nella New York City Urban Area più di 18,2, in quella di Shanghai 16,65, nella Moscow Metropolitan Area 14,8, in quella di Londra 13, in quella di Taipei 10,2. Che senso ha paragonarle con quelle di Firenze o Venezia, le cui intere province non arrivano al milione di residenti. Non è però solo una questione di spazi e bacini locali. L'attrattività dipende anche dalla dimensione e dalla quantità degli organici e dai budget a disposizione. Considerazioni analoghe valgono per la numerosità, la qualità e la frequenza delle attività temporanee, su cui spiccano, per rilevanza, quelle espositive. Nel 2008, anno in cui si sono già seriamente avvertiti i morsi della crisi, il Louvre ha allestito 17 mostre, il British Museum 14, il Metropolitan 19, il MoMA 41, il Centre Pompidou 36, l'Hermitage 25 e via dicendo. Non tutte sono ovviamente dei blockbuster, ma dietro un calendario così fitto e seducente troviamo cospicue risorse economiche, eccellenti professionalità interne, programmazioni serie. Per concludere, è ingiusto accusare le istituzioni museali italiane sulla scorta del solo dato quantitativo. Nessuno nega che vi siano limiti e problemi, ma dati alla mano, con le attuali risorse a disposizione, umane e finanziarie, esse ottengono risultati che, ceteris paribus, pochissimi golia internazionali riescono a vantare. Sarebbe bello, un giorno non lontano, poter assistere a un match giocato ad armi pari. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Guido Guerzoni dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. In un editoriale pubblicato nei giorni scorsi sul Corriere della Sera, Piero Ostellino interviene da laico in difesa del Papa e della Chiesa. All'origine dell'aggressione cui sono sottoposti la Chiesa e lo stesso Papa Benedetto XVI sul tema della pedofilia in ambito ecclesiale, ci sono un pregiudizio razionalista e una violenza giacobina. Si pensi alla peste pedofila, di cui parla Paolo Flores d'Arcais, che prefigura la dannazione per volontà popolare dell'untore di menzoniana memoria. Sono toni cui dovrebbe essere estranea la stessa cultura laica, che non è negazione della religione, ma cavuriana separazione tra le leggi e i comandamenti, tra lo Stato e le istituzioni ecclesiastiche. Il pregiudizio razionalista tende invece a cancellare la distinzione kantiana e liberale fra peccato e reato. Pretende di assimilare, omologare, i comportamenti della Chiesa a quelli della società civile, negandone la specificità spirituale, codificata nel diritto canonico, ben diverso da quello positivo dello Stato secolarizzato. La Chiesa, che condanna il peccato e perdona il peccatore pentito, ha commesso in passato, anche con Papa Wojtyła, molti errori in materia di pedofilia ecclesiale. I reati andavano denunciati con coraggio, mentre varie forme di reticenza hanno contribuito a peggiorare la situazione. Tuttora, gli atteggiamenti spesso confusi e contraddittori di alcuni rappresentanti del clero non aiutano a fare chiarezza. Quando risuonano paralleli impropri con le persecuzioni antisemite o si stabiliscono arbitrarie correlazioni tra omosessualità e pedofilia, si ha l'impressione che Papa Ratzinger vada tutelato anche dalle sortite incaute di alcuni alti prelati. Resta il fatto che non si può chiedere alla Chiesa di rinunciare a uno spazio autonomo di analisi e di giudizio, che è tutt'altra cosa dalla pretesa di sottrarre i propri membri dall'imperio della legge. Lo Stato e la Chiesa hanno missioni diverse e la pretesa di cancellare questa feconda differenza danneggerebbe entrambi. Si sta manifestando inoltre un vistoso paradosso. A essere oggetto degli attacchi più asperi è proprio l'attuale pontefice, che ha il merito indubbio di aver fatto opera di trasparenza all'interno della Chiesa su un fenomeno troppo a lungo sottaciuto e di aver cercato di definire e distinguere gli ambiti dei tribunali civili, riconoscendone le prerogative in tema di persecuzione del reato di pedofilia, secondo la legge civile, e quelli propri della Chiesa, rivendicandone l'autonomia nella condanna dei peccati e nella redenzione dei peccatori, secondo il diritto canonico e la propria predicazione, si chiama carità cristiana. Nonostante questo, oggi Benedetto XVI rischia di passare come il Papa che ha coperto la pedofilia dei sacerdoti. La distinzione fra peccato e reato è parte integrante della nostra cultura e della nostra civiltà, alla quale non possiamo rinunciare. Essa sanziona la differenza e la distanza fra lo Stato democratico liberale, fondato sui diritti e le garanzie individuali, e lo Stato teocratico, un ordinamento oppressivo che, come hanno tragicamente provato i totalitarismi anche di un recente passato, non si identifica solo nel connubio fra trono e altare, ma anche e soprattutto nell'illusione razionalista e nel tentativo volontaristico di cambiare, con mezzi coercitivi, la natura dell'uomo. Di fronte allo spettacolo inquietante cui stiamo assistendo, stupisce infine la grande quantità di spettatori che rimangono silenti in un'apparente indifferenza. Come se la stessa nostra democrazia liberale non fosse debitrice del messaggio cristiano che ha posto al centro la sacralità e l'inviolabilità della persona. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Piero Ostellino, Una difesa laica del Papa, dal Corriere della Sera del 14 aprile.